Voci di piccola impresa, idee anticrisi, di Anna Marino, verso l'Expo 2015. Buongiorno e benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi, verso l'Expo. Colture acquaponiche, aerogel, packed lunch per le intolleranze alimentari, spesa ready to cook. Sono alcuni dei progetti vincitori di Alimenta to Talent 2014, concorso per idee d'impresa, promosso dal Comune di Milano e dal Parco Tecnologico Padano di Lodi. Alimenta to Talent è il programma di accelerazione tecnologica per aspiranti imprenditori nel settore agroalimentare e delle scienze della vita che vogliono fare impresa in linea con i grandi temi di Expo 2015 e il suo motto Feeding the Planet, Energy for Life, nutrire il pianeta, energia per la vita. Oggi raccontiamo la storia di due delle cinque startup che puntano sull'agroalimentare su scelte sostenibili che sono state premiate a novembre 2014 all'Expo Gate di Piazza Castello a Milano nell'ambito del progetto Expo 2015 Alimenta to Talent. Dopo un bando internazionale a cui hanno partecipato oltre 100 team da tutta Italia, un terzo al femminile, sono stati selezionati 15 progetti di impresa finalisti. Ai cinque vincitori sarà offerta l'opportunità di un semestre di lavoro nel centro di ricerca del Parco Tecnologico di Lodi. 1.500 euro al mese per tutta la durata del programma, un advisor, un nutrito gruppo di mentor, spazi di co-working, eccetera. Il Parco Tecnologico Lodigiano è uno dei maggiori poli italiani di ricerca e sviluppo nell'agroalimentare e nelle biotecnologie e ospiterà a marzo il primo forum dedicato al contrasto della contraffazione alimentare promosso dal Ministero per le Politiche Agricole. My Foodie a Milano punta a ridurre lo spreco di cibo innovando l'attuale sistema di distribuzione alimentare. Attraverso una piattaforma di commercio elettronico le aziende possono vendere i prodotti in scadenza, difettati o in eccesso. Il cliente quindi può ritirarli presso il punto vendita o riceverli a casa propria con un sistema di trasporto non inquinante. Francesco Giberti racconta il momento dell'illuminazione e il suo viaggio antispreco fino ad Alimenta to Talent. Ero in Belgio circa 2 anni fa, stavo scrivendo la mia tesi di laurea in giurisprudenza. Ho comprato un pacchetto di biscotti biologici un pomeriggio, un tardo pomeriggio, e il giorno dopo a colazione li ho aperti e ho scoperto che sarebbero scaduti tra pochi giorni. Lì mi sono un pochino indispettito perché avevo pagato quel pacchetto di biscotti a prezzo pieno. Mi sono chiesto, insomma, se avessi letto la data di scadenza, se davvero le avrei comprati. Da lì diciamo che ho iniziato a condividere le informazioni che ho trovato sul web relative all'eccedenza alimentare e agli sprechi con altre persone che poi sono diventati i miei compagni di viaggio. Cosa volete produrre insieme a Alimenta to Talent? Fondamentalmente noi creiamo una piattaforma contro la riduzione degli sprechi alimentari, creando una vera e propria rete tra gli attori della distribuzione alimentare e della produzione, dando loro la possibilità di caricare sul nostro portale web le loro eccedenze alimentari a prezzi scontati e mettendoli in connessione con gli utenti web, che hanno quindi l'opportunità attraverso un sistema di geolocalizzazione di vedere tutte le offerte intorno a sé e di poterle acquistare direttamente sul portale. Ma il modello di business qual è? Da che cosa guadagnereste? Quali tipi di transazioni? Noi guadagniamo fondamentalmente da una percentuale che viene trattenuta sul venduto. Il nostro punto di forza sta nel modello di gestione logistico dei prodotti per le aziende. È un modello che è stato validato durante i 3 mesi di incubazione a Firenze e quindi diamo una soluzione veramente efficiente dal punto di vista della gestione logistica, e penso che fondamentalmente tutto ruota intorno a questo punto. Noi pensiamo che, insomma, gli sprechi alimentari, se gestiti in modo intelligente e recuperati a fini commerciali, possano portare davvero un vantaggio economico enorme. Gli studi del Parlamento dell'Unione Europea addirittura arrivano a dire che se si risolvessero i problemi degli sprechi alimentari si creerebbero 38 miliardi di euro di vantaggi entro 2020. Altro punto importante è anche il fatto che comunque la salute è tutelata. Non è vero che questi cibi poi diventano tossici o creano dei problemi di salute, no? Vero? È tutto controllato, no? Assolutamente, sì. Noi fondamentalmente cosa facciamo? Noi lasciamo il punto vendita o comunque l'azienda che ha l'eccedenza a gestire l'eccedenza stessa. Noi diamo a lui l'opportunità di caricare i prodotti sul nostro portale web ma la gestione del prodotto rimane in capo all'azienda. In questo modo si riesce a intervenire in modo molto più efficiente, quindi le aziende hanno già tutti i crismi per poter conservare i prodotti secondo la normativa e quindi fondamentalmente i prodotti non sono mai a rischio. Eco Aerogel a Pavia si propone di fornire materiali silicei di due tipologie: aerogels a elevata purezza ottenibili in quantitativi limitati, utilizzabili a scopi di ricerca e sviluppo, e a purezza inferiore da utilizzare in forma più diffusa. Che cosa sono? Questi materiali presentano caratteristiche isolanti uniche al mondo, sono in grado di resistere a oltre 1000 gradi centigradi e possono essere prodotti tramite un processo green a partire dalla cenere della lolla di riso, un prodotto di scarto molto presente nelle zone risicole. Stefania Grandi spiega in parole povere la sua idea, che fa dello scarto virtù. Dunque, io più di 10 anni che studiavo questi materiali, gli aerogel, che erano però ottenuti con via chimica classica. A un certo punto è scattata una lampadina, perché ho scoperto che le ceneri della lolla del riso, la lolla è questa pellicina del chicco del riso, che una volta che viene tolto viene comunque incenerito, perché ha un potere calorifico sorprendente, quindi le aziende utilizzano per fare energia, per fare lo stesso riso parboiled, e questo residuo era molto ricco in silice. Siccome i miei aerogel che ho sempre studiato li ho sempre fatti di silice, mi è venuto in mente di studiare meglio questa cenere. Ecco, dobbiamo spiegare ovviamente che il silice è un elemento importante, perché è un elemento fondamentale per molti circuiti, quindi sarebbe una rivoluzione utilizzare il silice invece, cioè la lolla di riso invece del silice. Ecco, mi spieghi e spieghi ai nostri ascoltatori in che cosa veniva impiegato e viene impiegato il silice? Allora, non confondere il silicio, che è quello dei circuiti, con la silice, che è il suo ossido. Allora, da un punto di vista teorico, dalla cenere si possono ottenere entrambi. Noi adesso stiamo lavorando sull'ossido di silice, che è quello che permette di fare questi aerogel, che sono dei materiali eccezionali, che hanno delle proprietà uniche al mondo. Per esempio, la più importante è che è l'isolante termico più potente al mondo, ed è già utilizzato dalla NASA da anni nelle tute, nello Space Shuttle e per altri, diciamo, usi. Quali sono le strutture che vi stanno aiutando, soprattutto per altre persone che magari hanno un'idea e dicono: ah, ecco cosa bisogna fare per arrivare al punto? Ecco, innanzitutto ci hanno affiancato un consulente che ci sta aiutando a costruire appunto il famoso business plan. Poi dopo ci sono altri esperti che ci stanno affiancando, per esempio per le domande ai finanziamenti europei, Horizon 2020, per le piccole e medie imprese ci sono dei canali molto facilitati, diciamo. Quindi i programmi europei stanno molto puntando sulle piccole e medie imprese con il nuovo programma quadro che arriverà fino al 2020, e noi infatti abbiamo intenzione di fare una domanda a finanziamento europeo. E poi quali sono gli altri step? Perché ci sono percorsi, voi partite da dicembre del 2014 e dovete arrivare al 1 maggio, il giorno in cui inizierà l'Expo, e in tutti questi passaggi, diciamo, dovete unire i puntini tra questi 2 mesi, ecco. Sì. Come dovete fare? Allora, dobbiamo costruire il cosiddetto business plan, capire come poter produrre questo materiale, con che costi, con un piccolo impiantino pilota, e poi mostrarci anche all'Expo, perché grazie appunto a questo premio dell'Alimenta 2 Talent, nei padiglioni Expo in città, avremmo uno spazio dedicato dove potremmo promuovere la nostra idea e il nostro prodotto. Quali sono le prospettive poi per la vostra idea? Diciamo, che cosa pensate poi di sviluppare e di guadagnare? Come imprenditori noi ci siamo già fondati, siamo appena fondati da un mese come startup innovativa, aspettiamo a giorni il riconoscimento come spin-off accademico, perché appunto essendo che l'idea nasce dall'università di Pavia e stiamo lavorando all'interno di quei laboratori, abbiamo fatto domanda per questo riconoscimento che ci permette di avere delle agevolazioni all'interno dell'università. Poi dopo la speranza è di camminare con le nostre gambe, di uscire e di diventare un'impresa vera e propria. E ora pensate a nutrire le vostre idee sostenibili. Se volete ascoltare le precedenti storie o scriverci le vostre voci di piccole imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Silvi Boccaletti. Un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci di Piccola Impresa, idee anticrisi. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Un saluto e a sabato prossimo.